Signore e signori, grazie di essere qui numerosi alla nostra presentazione del libro. Vi ricordo che la biblioteca continuerà questi appuntamenti lunedì e giovedì fino a fine dicembre in questa sala, ma che nel frattempo ci siamo trasferiti al piano terra con l'ingresso di via Marconi, e quindi abbiamo una nuova sede accogliente, ricca di novità, che vi invitiamo cordialmente a venire a vedere e a visitare. Questa sera abbiamo con noi, e ringrazio di essere qui con il suo nuovo libro, Ettore Frangipane. Lo conoscete, personaggio famoso, giornalista, ma scrittore anche, appartenente all'Associazione Scrittori Altoatesini, che è qui presente questa sera anche con numerosi iscritti, e che la prossima settimana inizieranno, anzi questa settimana inizieranno un periodo di presentazione e di attività presso il Castelmareccio. Il titolo di questo libro è appunto Bolzano scomparsa 9, quindi dà anche la cifra di quello che è il lavoro fatto in questi anni, e un lavoro certosino di ricerca. Il merito di Ettore Frangipane è quello di condurre delle ricerche, delle indagini storiche di tutto rilievo, di tutto rispetto, ma anche di saper cogliere alcuni aspetti particolari, interessanti, che così piacciono anche al pubblico e incuriosiscono nella lettura. Quindi riesce anche a mettere delle esche all'interno dei suoi libri, sempre molto interessanti e curiose. Con noi questa sera c'è anche Alberto Faustini, che è per noi una grande, graditissima sorpresa, che ci fa piacere rivederlo nelle nostre iniziative. E colgo l'occasione per ricordarvi appunto che anche giovedì avremo un'iniziativa, presenteremo due libri, Dettagli inutili. Ce la fate? Siete pronti? Comunque avete le cartoline eventualmente. Giovedì alle ore 18 presso questa sala ci saranno due libri che verranno presentati, Dettagli inutili e La trappola del fuorigioco, libri a cura della casa editrice Alfabeta, libri che riguardano il tema della psichiatria e delle terapie qui in Alto Adige anche. Infine, la prossima settimana, lunedì, sempre alle ore 18, ci sarà il libro Alla scoperta dell'Alto Adige con Anna Pintarelli e Silvia Spada, che ci presenteranno questo loro lavoro dedicato al nostro territorio. Se sono pronti i nostri sì, ospiti, bene, allora io cederei subito la parola ad Alberto Faustini e Ettore Frangipane per questa presentazione. Grazie a voi. Ah sì, scusate, c'è il presidente Mastrolia che voleva forse fare un'introduzione. Il presidente Mastrolia c'è? Viene qua, che così ci racconta un attimo. Grazie. Grazie alla dottoressa Trevisan per la possibilità che mi dà di comunicare. Me l'ha già accennato prima, che l'Associazione Scrittori Bolzano, a partire da mercoledì 11 fino a sabato 14, dalle 17 alle 19, da mercoledì al venerdì e dalle 9 alle 12 sabato, saremo a Castelmareccio con la seconda edizione della, quella che noi abbiamo voluto chiamare la settimana dello scrittore. È il secondo anno che si ripete questa esperienza. L'anno scorso ho avuto, mi piace dirlo con un pizzico di orgoglio, ho avuto un grosso successo. Speriamo che anche quest'anno si ripeta la stessa cosa. Chi vorrà essere nostro ospite a Castelmareccio 17-19, dall'11 al 14, dalle 17 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12. Anche in questo caso sarà nostro ospite il direttore dell'Alto Adige, che si occuperà della presentazione, almeno nella prima giornata, di un certo numero di nostri soci e autori di opere. Grazie e buonasera, buon lavoro. Grazie. Se sapevo che potevo non venire, sarei non venuto, vista tutta questa sorpresa. In realtà ho letto oggi sull'Alto Adige che presentavo io insieme a Ettore, e avrò pensato, non posso smentire il giornale o far passare l'idea che anche sull'Alto Adige ci siano notizie false, ma in realtà molto più semplicemente Ettore mi aveva chiesto se venivo a presentarlo, io gli avevo risposto un po' a modo mio, cioè gli avevo risposto come posso dirti di no, però effettivamente non gli avevo detto di sì, cioè mi ero tenuto un pertugio, una via di fuga, ed è un po' anche quello che ho fatto all'associazione degli scrittori, cioè ho detto mettete pure il mio nome, quando io riesco vengo volentieri, perché se fosse per molti di voi, che ringrazio, io di lavoro farei solo questo sostanzialmente, cioè passerei la mattina, il pomeriggio e la sera a presentare i libri, che è una cosa bella perché mi costringe la notte a non dormire per leggere, però sono anche degli svantaggi, nel senso che devo nei ritagli di tempo dirigere due giornali. Fatta questa premessa, voglio dirvi due cose di Ettore, anche perché so che una volta che gli cedo il microfono non lo riavrò mai più, per cui approfitto di questo primo momento di distrazione di Ettore e di concentrazione vostra. La prima cosa, mi dice che questo è il suo penultimo libro rispetto a Bolzano Scomparsa, già fa capire che poi ci saranno i romanzi, e io gli chiedo ufficialmente, di fronte a molti testimoni, di ripensarci. Perché gli chiedo di ripensarci? Perché è ben vero che dal 1850 al 2017 non è che uno può scrivere 2000 libri, però considerato che lui ha visto e letto 25.000 articoli per arrivare a questi primi 9 libri, considerato che, come dire, è affogato nei giornali a dimostrazione del valore profondo della carta stampata, beh, io penso che lui possa trovare ancora dei filoni. Per esempio in questo per la prima volta non c'è Pera Toner, che è una delle mie disperazioni, e si può scrivere anche un libro senza citare Pera Toner, che è una cosa quasi unica al mondo per Ettore, però al di là delle battute c'è un filone che sta fra la memoria, il passato e il presente, che automaticamente ci aiuta a leggere il futuro. Ecco, in questo filone Ettore è entrato con una grande capacità, del resto lui è un famoso inviato da diporto, mi verrebbe voglia di dire, considerato che lo sport si scopre nel libro, a un certo punto bisogna tradurre anche lo sport, no? In un altro modo, bisogna trovare la parola diporto, perché lui che si è occupato a lungo di questo, certo sarà stato un po' in imbarazzo, nel senso che in questo nono libro, dopo averlo visto le altre volte in miniatura, cioè piccolino vestito da giovane Badilla piuttosto che giovane italiano, vuoi averlo visto un po' più grandicello sul Talver, questa volta lo vediamo adulto che intervista Bertini, adulto che intervista Di Biasi, cioè sostanzialmente sta diventando un contemporaneo anche Ettore. Qual è però il problema? Che, ripeto, in questo filone si scopre ci sono ancora molte storie che noi diamo per scontate. La vostra stessa presenza qui in fondo dimostra che c'è ancora grande curiosità per quello che non è scontato. Poi ognuno di noi magari ricorda le sue pagine, la sua vicenda personale, il suo approccio a determinati temi della città. Ettore fa una cosa diversa, cioè accende un riflettore su ognuno di questi dettagli, che messi insieme fanno un mosaico che secondo me merita ancora più di un libro, caro Ettore. Poi chi lo dice che non va raccontati anche gli anni 2000? In un paese in cui ogni 2 o 3 anni cambiamo totalmente idea e posizione e torniamo anche all'antico. Per esempio si scopre che l'aristocrazia, leggendo Frangipane, che riempiva gli hotel di Merano, è stata sostituita da Berlusconi, voglio dire, qui c'è un'attualità che ti permetterebbe anche di raccontare come il paese sta cambiando attraverso questi dettagli. Ancora solo un paio di cose, c'è anche chi l'ha visto questa volta nel libro, perché quando si parla di Georg Pfeiffer si scopre che il libro permette persino di aprire una finestra su un mistero un po' diverso da quelli che l'hanno preceduto, nel regno italico di napoleonica memoria. C'è anche un principale un po' politico che si interroga su come chiamare questa terra e alla fine conclude, poi sentiamo se ne parlerà, col concetto di Tirolo, dicendo che il Sud Tirolo è un'invenzione, perché come si fa a essere Sud Tirolo se poi a sud c'è il Trentino, ma il Trentino è troppo irredentista, e poi c'è a nord il Tirolo, c'è qualcosa insomma che non funziona. Però è interessante leggere come anche le parole cambino significato negli anni attraversando anche le pagine giornali. Ho scoperto persino che Atesia ogni tanto prende l'H, ogni tanto la perde a seconda dei punti di vista, insomma, leggendo questo libro, ma su questo starò molto attento a quello che dico. L'ultimissima cosa, che per me è molto interessante, leggendo Frangipane io per esempio scopro questa declinazione interessantissima del concetto di folklore, cioè folklore inteso come orgoglio delle origini, che è una cosa che tante volte diamo per scontato, no? Perché passa attraverso i costumi, attraverso l'abbigliamento, attraverso le tradizioni. Però parlare di folklore per tutti noi è facile, parlare invece di orgoglio, parlare di costumi, parlare di origini, parlare di fatto di come la società sta cambiando, insomma, è molto più sofisticato. Io però partirei, perché so che tu sei pronto a partire da Carlo I, da Napoleone I, da Francesco II, insomma è quasi una classifica di un inviato di diporto, Ettore Frangipani. Ti ringrazio. Inviato di diporto, mi piace. In effetti durante il fascismo non si diceva sport, che era troppo tedesco, a un certo punto si è ritenuto di dire, era no, troppo tedesco, era troppo straniero, no? Si è ritenuto di dire diporti, i diporti invernali per esempio. E io ho scritto anche sui diporti invernali, traendo notizie tra l'altro anche dalla rivista Tesi Augusta, ecco perché dell'arte che c'è e non te. Perché dovete sapere che la Tesi Buchhandlung, no? La libreria, la tipografia a Tesi ha l'arca, però a Tesi in questo caso deriva da un termine Tirolia che durante il fascismo non si poteva usare perché era troppo tirolese Tirolia, no? E allora dovettero cancellare Tirolia, che restò a Innsbruck, che restò nel Tirolo del Nord, e qui assunsero il nome di Atesia. Atesia, cui seguì poi una rivista piuttosto bella che apparve durante il tardo fascismo e che era appunto Atesia Augusta, con senza l'H, ecco, mi viene da dire così. Beh, parliamo allora di questi personaggi, di questo mio nono volume sulla Bolzano scomparsa. Faustini ha detto che ho letto 25.000 articoli, forse di più. Io ho copiato Frangipani dice 25.000 notizie. Ma i giornalisti non sono sempre attenti. Non sono sempre attenti, no, benissimo. E allora no, sono solo 25.000, sono anche 30, perché continuano ad... Io, nella mia biografia, nel mio curriculum, ho scritto anni fa 25.000 articoli, ma sono passati gli anni, adesso ritengo di averne letti anche più di... Per cui puoi fare il decimo e l'undicesimo, stai già dicendo, non c'è spazio anche per andare avanti. Lui ci tiene, perché sembra che la mia rubrica sul giornale Alto Adige abbia successo, no? E... Non solo, ma come ti ho detto c'è bisogno di memoria. C'è bisogno di memoria, sì, a parte gli scherzi è vero, c'è bisogno di memoria, è una cosa che mi consola, e quando mi dicono ma che belle quelle cose, mi piace leggere il mio passato eccetera, e quando vengono a farmi dei complimenti, degli apprezzamenti, sono dei complimenti delle persone di lingua tedesca, perché loro stesse non conoscono la storia della loro terra, che a questo punto è diventata anche la mia terra, perché qui sono nato, anche se i miei genitori vengono uno dall'estremo sud, Calabria mio padre, l'altro dall'estremo nord, Sassonia mia madre, e poi, come diceva il mio professore Roberto Moggio, felice connubio il loro e sono nato io. Dunque, cominciamo dalla copertina. La copertina, avete già capito chi è quel personaggio, se non lo capite ve lo dico adesso, è Carlo I, Kaiser dell'impero austro-ungarico per poco tempo, perché dopo la lunga presenza sul trono di Lussemburgo di Francesco Giuseppe, essendo Francesco Giuseppe morto nel 1916, subentrò il povero Carlo I, e dico Carlo I perché non gli restò che amministrare l'implosione, la distruzione dell'impero austro-ungarico, che fu una bella cosa, perché fu una specie di anteprima di Europa unita. Pensate a quante etnie, quante religioni, quante scritture, perché si andava dall'ortodosso all'arabo, alla Bosnia, alla scrittura, alla calligrafia romana, romano-latina e via dicendo. Beh, lasciamo perdere. Veniamo subito alla successiva immagine che mi piace, è l'immagine del risvolto dell'ultima pagina. Perché? Perché questi signori ve li ho fatti vedere e ve li faccio vedere a colori, perché c'è un articolo di Heinrich Heine, che era più che un articolo, è un capitolo di una sua Italian Reise. Heinrich Heine, un colosso della letteratura tedesca, che viaggiò e fece la sua brava Italia in Reis, come dicevo in precedenza. E arrivò... dici che era quasi più famoso di quello di Goethe, no? Solo che oggi ci ricordiamo solo quello di Goethe. Goethe, ma lui precedette Goethe, lui precedette Goethe. E venne in Italia, e venne a sud delle Alpi, quando ancora l'Italia non esisteva. Non c'era l'Italia, c'era il regno italico di Napoleone Bonaparte, e con la carrozza, perché non c'era ancora il treno, no? E descrisse così, e la cosa mi piace, mi è piaciuta, tant'è vero che l'ho riportata, il suo ingresso in Italia, in Alto Adige, diciamo, anche, ecco qua, la sua descrizione. Spesso, scrisse, nonostante il cattivo tempo, si sollevò anche il mio cuore per raggiungere le persone che vivono su in alto, sulle montagne, e spesso non ne scendono più di una volta in vita loro, per apprendere quello che accade qua sotto. Una volta i contadini stavano su montagne, là restavano, non c'erano le strade asfaltate di adesso, c'erano dei sentieri... piuttosto disastrati, stretti. Che tu hai percorso anche in bici, racconti nel libro questa volta. Sì, no? Facevo. C'è anche un'impresa alla coppia batta. Sì, è vero. Ma quando andavo a pedalare, su terra battuta, strada in terra battuta, verso Salentino e verso Appiano, perché mi divertiva l'idea di salire, una fatica terribile, perché andavo su con vecchio catorcio di mia madre senza il cambio, e poi giravo quando non ne potevo più e scendevo a tutta velocità sullo sterrato, che era anche una cosa molto pericolosa, tra parentesi. Bene, allora vi dico di questo Heine, che descrive le montagne che lo circondavano mentre lui in diligenza scendeva verso Bolzano per poi andare oltre Trento, Verona, eccetera, e scrive. Ma si sentono i contadini che abitano in questi maggi, che si vedono da lontano, si sentono ciò nonostante ugualmente felici. Di politica non sanno niente, solo che hanno un Kaiser che indossa una giacca bianca e pantaloni rossi. Io non vedo più niente, adesso vediamo se si riesce a vedere. Eccolo qua. Una giacca bianca e pantaloni rossi, e Francesco II. Glielo ha raccontato il vecchio zio, che l'ha sentito ad Innsbruck dal Bruno Seppel, che era stato a Vienna. E quando i patrioti, notate l'ironia di Heine, e quando i patrioti, cioè i rivoluzionari di Andrea Sofre, l'allusione ai ribelli di Andrea Sofre per l'appunto, salirono fin da loro per raccontare in tono convincente che avrebbero avuto tra breve un imperatore che indossava una giacca blu, lo vedete, Napoleone, e pantaloni bianchi, allora impugnarono i loro schioppi, baciarono moglie e figli e scesero dai monti per farsi uccidere in difesa della bianca giacca e dei cari vecchi pantaloni blu. Bellissimo. E voi capite che Heinrich non era ben visto dagli austriaci, ma anche in Germania non era ben visto, perché era dotato di uno spirito caustico eccessivo. E tu dici che la visita di Carlo I fu memorabile, poche ore, sì, però sì, una cosa sì, che restò negli annali. Ma senso. Io mi ricordo poche ore, veramente. C'è una fotografia sua che ho proiettato in altre occasioni, di lui che passa in rassegna i bosniaci del suo esercito davanti alla stazione ferroviaria di Bolzano. Bosniaci, pensate, musulmani, una delle tante etnie, delle tante religioni dell'impero austro-ungarico, i bosniaci musulmani avevano il fez, non un cappello con la tesa, sapete perché? Perché col fez si potevano inginocchiare senza togliersi il cappello e toccare terra con la fronte. Questo era il motivo per il quale. Vediamo di andare avanti adesso con altre Ah, questo qui, tra i tanti discorsi c'è anche questo relativo alle ferrovie, agli impianti di risalita, eccetera. Questa è la prima funicolare del Gulcina. Tu ricordi anche i misteri, le liti e il fatto che nascosta ci sia ancora. C'è ancora, esatto, c'è ancora, non la si vede. Esatto, perché se voi andate a Grisa e guardate verso la montagna, vedete che a un certo punto c'è una specie di valle stretta che sale ed è tutta verde. Ma è verde perché? Perché l'edera, le piante hanno sommerso la traccia dei binari della funicolare. E anche questo è già più facilmente visibile. Vi consiglio una passeggiata a Ponte Loreto, per esempio, no? Andate a Ponte Loreto e guardate verso il virgolo, noterete un ponte immerso nel verde, coperto di verde, un ponte che era un viadotto della funicolare del Virgolo, che aveva la maggior pendenza in tutto l'Austria-Ungheria, il 70%, ed è tuttora là coperta di verde. Sarebbe secondo me un qualcosa da recuperare in un modo o nell'altro, da fare una strada, un sentiero, una scalinata defatigante naturalmente per salire fin lassù. Benissimo, questa è la prima versione della funicolare del Gulcina. Qua siamo nuovamente lungo la passeggiata del Gulcina questa volta, no? Questo è il Grieze. 135 anni, ricordo bene? Tu scrivi una roba del genere, no? Ma tu hai più memoria di me. Sì. Io sono all'età, no, mi ricordo che mi hai detto 135 anni. Sì, esatto, dico esatto, perché deve essere esatto. Comunque fu prima della prima guerra mondiale. Questo personaggio. 135 anni. Ah, lui se lo ricorda perché se lo scrive. Ecco, io non me lo scrivo, non me lo ricordo. Questo è Enrico d'Asburgo, Heinrich von Österreich, che visse e morì a Bolzano in Palazzo Campofranco e che fu uno dei, anzi forse il promotore della passeggiata del Gulcina. Amava la natura, le piante, e vide che la temperatura in zona, il microclima era favorevole, quindi vi portò cactus di ogni genere, piante di ogni tipo, di ogni genere, che se voi salite piano piano, passo passo la passeggiata, potete vedere tuttora, potete ammirare tuttora. E erano piante che qua non esistevano e lui le andava a raccogliere nel sud Italia e le portò qua. Ci sarebbe da raccontare la storia di Heinrich von Österreich, che è una storia bellissima, perché tra l'altro aveva sposato, cosa inaudita, una cantante. Ci fu uno scandalo terribile a corte, a Vienna. Francesco Giuseppe gli tolse addirittura ogni titolo nobiliare. Lui andò, la cantante si chiamava Leopoldine Hoffmann, e lui dovette lasciare per opportunità il Tirolo e andò a Lucerna, dove gli nacque la coppia una bambina che chiamarono Rainera. Ed era, non so per quale ragione, non voglio dire che la bambina era carina, ma sta di fatto che il re, non mi ricordo più se di no, era il re di Baviera, un Wittelsbach, di sua iniziativa, sponte sua, diede un titolo nobiliare alla madre della bambina, cioè la cantante, no? Il titolo divenne la baronessa von Weideck. Bellissimo. E allora, visto che era baronessa, Francesco Giuseppe si commosse, e la famiglia di Enrico e di Leopoldine Hoffmann, che anche lei a questo punto acquisì un titolo, la dignità di aristocratica, e quindi aveva la possibilità di entrare in famiglia. Però non andò mai non le fu mai consentito, e neanche ad Enrico, di andare a Vienna. Proprio niente da fare. Dunque, no, perché vi ho raccontato questa storiella? Un po' perché è una storiella curiosa, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma ve le risparmio, se no passiamo fino a mezzanotte e oltre ci troviamo ancora qua e io con la bocca arida. Perché questa statua che ricorda Enrico d'Asburgo non c'è più, è scomparsa. Durante il fascismo tutti i cenni, gran parte dei riferimenti agli Asburgo furono allontanati, distrutti, ed è un peccato. Ed è un peccato, perché qua da noi, io penso nel mondo in assoluto, si distruggono i monumenti. Ed è una cosa che è assolutamente negativa. Pensate che negativa, perché un monumento è, a mio giudizio, non solo un ricordo storico, ma è anche un momento di estetico, da intendere in questo senso, una decorazione, una cosa così, no? E pensate che nelle cantine dell'Istituto Tecnico Industriale c'è un busto di Vittorio Emanuele III, alto così, marmo bianco, no? L'ho visto e fotografato, e anche là dico io, ma tiratelo fuori, è una memoria storica, è una memoria storica. E poi è un elemento decorativo, è comunque un elemento decorativo, sarebbe. Allora andiamo avanti. Oh, questa è un'altra storia interessante. Vedete questo signore qui al centro? Ve lo sto indicando, vero? Si vede la freccetta che si muove. Questo si chiama Giovanni Salvatore d'Asburgo. Detto Gianni, no? Detto Gianni, esatto. Un Asburgo che parlava prevalentemente italiano. Perché? Perché era figlio del Granduca Leopoldo di Toscana. E questo Giovanni Salvatore era nato a Palazzo Pitti, tra l'altro, a Firenze. E la sua vita è una vita avventurosa, incredibile. Eccolo qua su un ritratto su un giornale austriaco, perché Giovanni Salvatore, detto Gianni, infatti Ribal, dici tu, no? Sì, esatto, era anche lui, era un Asburgo fuori dalle regole, in contrasto con la casa degli Asburgo, con Francesco Giuseppe, e fu grande amico di Rodolfo, l'erede al trono d'Austria, figlio di Francesco Giuseppe, col quale andavano a fare piccole mascalzonate, insomma, scappavano, ma già in età naturalmente. Tra l'altro Rodolfo, cosa che non si scrive da nessuna parte, ebbe anche la sifilide, quindi aveva una vita piuttosto avventurosa, insomma, no? E questi due se la intendevano e contestavano gli Asburgo. Erano due Asburgo che contestavano gli Asburgo, cosa singolarissima, interessante. Rodolfo fu suicidato, a quanto pare, non si è ucciso Meyerling, pare proprio che sia stato un fatto tenebroso, per il quale, siccome lui sosteneva l'indipendenza dell'Ungheria, Rodolfo, c'è stato qualche cosa per il quale l'hanno ucciso, lui e Maria Vezzera, che era poi la sua giovanissima amante. Maria Vezzera, quando io devo stare attento a parlare perché prendo troppo strada a un certo punto, ma questo ve lo voglio dire. Quando nel castello di Meyerling fu composta la salma di Rodolfo, che fu vista da non ricordo più, no, lascio perdere, era un futuro personaggio eminente del governo italiano, che scrisse sul Corriere della Sera i suoi dubbi sulla vera causa della morte di Rodolfo, e allora il giornale fu sequestrato in Austria, e tra l'altro anche logicamente a Bolzano. E si trattava questa salma di questa giovane e bella donna, Maria Vezzera per l'appunto, baronessina, era d'incomodo, sento la campana a morte, non è terminata, era d'incomodo perché andava allontanata in un modo o nell'altro. Sapete cosa fecero allora? La trasportarono in una carrozza, le diedero un atteggiamento composto, seduta. Siccome le cadeva la testa in avanti, le infilarono una scopa, cioè un bastone nella schiena, in modo che le mantenesse, la salma mantenesse la posizione verticale. E così la povera Maria Vezzera se ne andò. Adesso devo tornare nuovamente, so già che ho tante fotografie, ma non ve le potrò far vedere tutto, perché naturalmente sto perdendo molto tempo in chiacchiere. A me alle volte piace chiacchierare. Dunque, cosa fece? A un certo punto questo Giovanni Salvatore se ne andò, rinunciò al trono di Bulgaria, perché gli avevano promesso il trono di Bulgaria, se ne andò e comprò una navicella, un grosso battello a Liverpool, e lo battezzò Santa Margherita, e con quello se ne andò in Sud America, Terra del Fuoco e dintorni, Patagonia eccetera, e iniziò il commercio tra il mare Atlantico, cioè l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. Ci fu nel 1890 una tempesta, e secondo note ufficiali la tempesta affondò la navicella di Giovanni Salvatore con tutto l'equipaggio, ma pare che sia stata una colossale palla per una messa in scena da parte di questo granduca, che aspirante granduca, erede di granduca, che voleva scomparire, non voleva più avere contatti con la casa regnante austriaca e in assoluto col mondo civile. Restò in Sud America, poi cambiò nome e trasformò il suo nome in Earth, tornò finalmente in Austria, ma come Earth, non più come Asburgo, come si chiamava. Dunque la cosa non è ancora terminata, perché è pendente una lunga causa che non termina mai sul DNA, perché è stata recuperata la salma di questo Earth, appunto per definire il DNA, ma nessuno degli Asburgo viventi ha voluto a sua volta sottoporsi all'esame del DNA. E questo perché ci sono di mezzo, tra l'altro, dei problemi di che cosa? Di eredità, naturalmente, tanto per cambiare. Ecco, vi ho raccontato questa vicenda e sto cercando di raggiungere adesso la successiva immagine, eccola qua, miracolo. Oh beh, questa è una cosetta da niente, questa qua è una rappresentazione a Merano, all'epoca le rappresentazioni le chiamavano le bendige Bilder, cioè i quadri viventi, no? Non erano rappresentazioni vere e proprie, con la recita, discorsi e tutte queste cose qua. No, gli attori entravano sul palcoscenico, assumevano delle posizioni che mantenevano, come fosse una fotografia, e là stavano per qualche minuto, scrosci di applausi naturalmente. Qua vedete Andreas Hofer, questa è una fotografia, è un quadro vivente che è stato fotografato, perché questa è una foto, a Merano nel 1907. È una forma di spettacolo che ho voluto ricordarvi e proporvi. Questo è un altro momento che, di storia bolzanina, che forse voi tutti ricorderete, 1956, la rivoluzione di Budapest in Ungheria, antisovietica. Questo è un carro sovietico bruciato, qua si raccolgono le salme dei carristi, povera gente, che non sapeva neanche dove andava. Ecco qua, questa è una salma bruciata che viene raccolta, il carro è saltato, avanti tutta l'Ungheria occupata militarmente dall'Unione Sovietica. Perché questa storia? Perché ho voluto ricordare un momento della mia vita nel quale in quegli anni qui a Bolzano, nel 1956 ero universitario, e giunse a Bolzano un certo numero di studenti ungheresi che scappavano dall'Ungheria perché si erano compromessi contro il regime, no? E ne ebbi modo di conoscere alcuni, ci furono delle famiglie di miei compagni di classe, ero al liceo logicamente, anzi no, ero ormai già all'università, che ospitarono questi ragazzi. Uno mi ricordo in particolare la famiglia Medizza, e lui Medizza era agente della CIA. Ecco, Bolzano fu testimone anche di questi momenti, e se andate in piazza 4 novembre e vedete ai martiri dell'Ungheria Azione Cattolica, questo è un ricordo di quei momenti vissuti da Bolzano e vissuti anche da me. Questo è un altro momento nel quale non c'era Faustino, che sta troppo zitto. No, io ti guardo, se ti dilunghi io intervengo, ma stai andando bene, stai inchiodando di prima su Francesco, poi si è ripreso Giovanni. Giovanni troppo. Va bene. Mi piace questo. Mi chiedo, questo Giovanni che parlava, soprannominato Gianni, quando era a casa sua a Firenze, secondo te parlava italiano o tedesco? Ma non c'è dubbio che parlasse italiano. Vero che parlava. Se aveva un soprannome Gianni, non poteva che essere. Ecco, tornava a Vienna e parlava tedesco, naturalmente. Era un perfetto bilingue. Era un perfetto bilingue, senza patentino. Questa invece è un'immagine curiosa, bellina. Qua siamo, sapete dove siamo? Siamo in via Leonardo da Vinci. Riconoscete questa assicurazione alla pace, si vedeva una volta, no? Qua non c'è ancora il grattacielo, qua non c'è ancora l'Hotel Europa, però c'è una massa di gente. Cosa fa? C'è il tram, vedete che c'è il tram qua? Qua c'è il tram, che sta arrivando e non riesce a passare, questi sono i binari del tram. Sono gli anni 30, questa gente è fuori per la strada ad ascoltare un discorso di Mussolini. Perché qui sulla destra, qui sulla destra c'era la cosiddetta Casa Littoria, la sede del fascio, che nel 1942 fu poi trasferito, sede del fascio, Casa Vittoria, Littoria, in piazza del Tribunale, Mussolini a cavallo. Quello era l'edificio che ospitò dal 1942 in poi appunto il vertice del fascismo a Tortellino. E questi signori sono qua che stanno ascoltando la radio che sta trasmettendo un discorso di Benito Mussolini, perché allora si usava così. Ah, questo è un altro bel momento. Riconoscete qualcosa? Qui siamo sulle passeggiate sul lungo Talvera, scendete il lungo Talvera a sinistro, no? Che tra l'altro torna spesso nel tuo libro, no? Vuoi perché parli di lettieri, vuoi che perché parli di quel salotto del Talvera dove si torna sul ponte, vuoi perché ci arrivano i fondatori della fabbrica di pianoforti, cioè, un po', no? Un punto di contatto fra le storie di non solo, ma è la orta di Bolzano, certo. In un certo senso, sì, non è l'Isarco che è più grande, ma il Talvera che è piccolo. Poi da dire che nel Talvera andavo a giocare io con le mie sorelline, ci faceva con dei sassi, facevamo argine all'acqua e poi là mi immergevo, se l'avesse saputo mio padre. Dunque, questi siamo prima della prima guerra mondiale, qua questo è il monumento a Re Laurino. che fu al quale tu dedichi diverse pagine perché torna anche Laurino. Ma ti faccio una domanda secca: tu dove lo metteresti Laurino? Visto che racconti che si sposta ogni 8 anni, no? Ho detto anche che avrebbero le rotelline, sì, sotto, no? Il trolley in Laurino, dove lo potresti? Sì, ma in un giardino. A me piace, lo trovo mal messo là, ma no, può piacere anche là, però in assoluto in giardino fu esiliato anche Walter Forvai, certo, che poi tornò quando eravamo piccoli, sì. Quando eravamo tu non c'eri ancora. No, io devo dire, me lo ricordo purtroppo in quel giardino. Non sono così giovane. Un secolo di bambino. L'ho visto. Sì, vabbè, ma eri figlio di... È figlio del mio caporedattore alla RAI, Gianni Faustini. Da non confondersi con Giovanni, quell'altro. Quello era d'Asburgo Lorena, esatto, però. Dunque, questa statua, che adesso vi faccio vedere nel dettaglio, qui appunto in questa cornice un po' sterile, fu scolpita dallo scultore Kompacher. Ah, questa è un'altra cosa curiosa. Lo scultore Kompacher nel 1905, mi pare, una cosa del genere. Sette, ma non è importante. Ho scritto sette. Di solito mia moglie che mi sta a guardare a correggere le bozze, mi guarda con occhio. No, dici nel 4 il Consiglio Comunale decide, no? Perché probabilmente nel 7 c'è una cosa, nel 5 può essere. Dunque, il quale scolpì anche un San Giorgio il Drago che si trova nel cimitero militare di San Giacomo, bellissimo cimitero, per quanto possa essere bello un cimitero, perché ci sono sempre un discorso di morte lì, però è molto grazioso, molto ben tenuto, tra l'altro, con tutte queste sue crocette di legno. Ci sono anche delle croci di, che non sono croci, delle lapidi di soldati austro-ungarici, bosniaci, quindi senza croce. No? Stavo dicendo che c'è un San Giorgio, un monumento con San Giorgio e il drago, sul quale c'è l'inizio e la conclusione della prima guerra mondiale, 1914-1917. Come mai 17? In un momento di entusiasmo, e con pace, vedendo, era forse il momento di Caporetto, no? Anticipò la conclusione della prima guerra mondiale, scrisse 17 anziché 18. Ecco, sono le piccole cose che si scoprono guardandosi attorno. Questa qua è poco bella, se ne è parlata, Virginia è il suo nome, ma è tutt'altro che virginale questo sguardo. Questa è Virginia, è contessa di Castiglione, cugina di Camillo Benso di Cavour. Ho voluto raccontare un po' di Garibaldi quando arrivò fino sullo Stelvio. Ho scritto un romanzo, Garibaldi sullo Stelvio, tra parentesi, 1959 è arrivato, ha contribuito a conquistare la Lombardia ai Savoia, dopodiché l'hanno fermato perché stavano andando troppo avanti, non solo, ma c'era stata la battaglia di Solferino con 8.000 morti in un giorno, per cui a un certo punto Napoleone III ci ripensò e si fermò. E Napoleone III era alleato di Vittorio Emanuele II. Questa signora era cugina, per l'appunto, di Camillo Benso, conte di Cavour, che incontrò Napoleone III per convincerlo ad entrare in guerra a fianco del Piemonte, a Plombiere ci fu un incontro riservato, nascosto, e Camillo, conte di Cavour, portò con sé la sua bella cugina, la presentò a Napoleone III, che ci si intrattenne, aprendosi così benevolmente alle istanze dei Savoia. E quindi se la prima guerra di indipendenza ebbe luogo, lo si deve anche con acquisizione da parte di Savoia della Lombardia, lo si deve anche a questa signora. Tra l'altro la fascia alta, l'ho detto o non l'ho detto ma lo dico adesso, della Lombardia fu conquistata in Savoia per l'appunto da Giuseppe Garibaldi, che arrivò fino allo Stelvio e era sopra lo Stelvio, sullo Stelvio incombe una cima che è detta Cima Garibaldi. Andiamo avanti. È sempre lei, eh? Le piaceva farsi fotografare, era sicuramente una bella donna. Guardate quanta roba aveva addosso, ma poi se la toglieva anche. Ecco. Oh, questa, guardate, è una fotografia che mi piace moltissimo, una stampa che mi piace moltissimo. Qua siamo nel 1830 e qualche cosa. Siamo in Val Sarentino. Questa è la strada allora. Tu racconti quanto ci voleva allora, no? Appunto quando ti mettevi anche tu in bicicletta, i tre giorni di allora, i giorni di oggi. Esatto, esatto. Pensate che quando fecero la strada, un certo ingegnere, imperiale regio ingegnere Schweighofer, che costruì la strada della Val Sarentino, della Val Gardena, della Val di Funes e della Valdega. Perché su queste montagne erano del tutto isolate, questi contadini, come ho detto in precedenza, no? Aveva scritto Heinrich Heine, vivevano lassù e là restavano, non c'era possibilità di commerci neanche. La strada, i commerci delle statuette di legno della Val Gardena decollarono quando nel 1850 e qualche cosa fu costruita la strada, e allora i primi carri poterono arrivare fin lassù. Qua vedete come ci si saliva. Questa, qua sotto c'è il Tarvere, qua c'è il Bolzano, vedete, sono tutte vigne ancora, sono le vigne tra Gries, che è qua, e Bolzano, che è qua dietro. Questi sono dei portatori, perché le cose andavano portate su a spalla. Guardate, pensate che questi facevano la strada a piedi dal fondovalle fino su a Sarentino. Questo è come si viveva una volta. Adesso in 12 minuti da Piazza 4 Novembre si è nel centro di Sarentino. Andiamo avanti. E questa è la strada di Sarentino, questa è il vecchio tratturo, questa è la strada alternativa che fu costruita negli anni 30 del secolo scorso, terra battuta, e adesso ci si passa dietro in galleria naturalmente. E questo è uno dei mezzi dell'epoca. Questo è un omnibus della Daimler. E nei primi del secolo scorso, dunque questo è esattamente nel, no, ce l'ho anche qua, e questo era un autobus che portava fino a 12 persone, andava come velocità massima 26 km all'ora, e quando inaugurarono la linea d'autobus tra Bolzano e Merano si calcolò, fu misurato il tempo di percorrenza, 73 minuti. Da notare che quando questi autobus iniziarono a circolare, fecero delle prove perché si trattava di vedere se, come, quando, se era opportuno o non opportuno, se era economicamente positivo il ricorso a questi mezzi. In precedenza si usavano i Stellwagen, che erano le diligenze praticamente. Ogni diligenza aveva bisogno di un imprimato imperiale regio e poteva quindi esercitare questa. E qua a questo punto subentrarono, fecero le prove, subentrarono questi autobus portata 12 persone, ruote di legno, senza pneumatici. I primi pneumatici erano di gomma piena, naturalmente, che, come avevo detto in precedenza, andavano a velocità oggi assolutamente risibili. Ogni Ogni città aveva un suo codice stradale, tra l'altro, anche sul fatto di tenere la destra, tenere la sinistra, era tutto ipotetico, bisognava di volta in volta precisarlo. Il tram di Bolzano, che partiva da Piazza Walter e arrivava a Gries da una parte e a San Giacomo di Lages dall'altra, nel percorrere le strade della città passava un po', teneva un po' la destra e un po' la sinistra. Destra, sinistra, e c'era un binario unico, no? Sotto casa mia, all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Regina Elena, allora, oggi via Cassa di Risparmio, il tram passava teneva inizialmente alla sinistra, poi tagliava la curva e passava a destra. Quindi, e poi sul Ponte Talvolo c'erano due binari, allora i tram si incrociavano e tenevano la destra. Ecco. Oh, andiamo avanti ulteriormente. Qua siamo a Gries, questa è la chiesetta di Gries, no? Dove ci sono, c'è l'altare di Martin Knoller, questa è la villa Aufschneid, che era all'epoca, qua siamo nella seconda metà, nella prima parte della seconda metà dell'Ottocento, che era un po' di villa, insomma, una bella villa. Notate che qui avevano delle orangerie, il microclima di Gries, del quale vi dicevo in precedenza, no? Qui allevavano, facevano crescere i limoni, gli aranci, e con gli anni la villa Aufschneid si trasformò nel Grieserhof, in una casa di cura praticamente, no? Adesso, e poi si è espansa, adesso stanno nuovamente lavorando, tra poco ne faranno un grattacielo, penso, io non so che cosa. Comunque, questo interessante è che qua la nobiltà veniva qui a farsi curare, tutte queste cose qua, e tra gli altri arrivò qui anche questa bella signora, che è la figlia di Fyodor Dostoevsky, la quale Lyubov, oppure ahimè, Dostoevsky, Lyubov vuol dire amata, ahimè, si faceva chiamare alla francese un po', era la figlia, qui ritratta però sulla Riviera Ligure, perché era tubercolotica, e morì curata dal dottor Ressler nel 1926. Ressler che la fece passare per depressa perché non avrebbe potuto ospitare delle tubercolotiche. Questa ve l'ho raccontata. Ah, c'è un po' di Lourdes, sì, che arriva fino a Bolzano. Racconta. Ce la fai ancora? Ce la fa 5 minuti lei ancora. 5 minuti. Sono mai 108 pagine. 6. Vada per 6. Questa è la Madonna che troverete di Lourdes, che troverete o che si trova nella chiesa dei Domenicani, davanti nel piazzale della chiesa dei Domenicani. C'è questa grotta e qua c'è una statua della Madonna. Perché ho voluto ricordare questo episodio? Perché leggendo vecchi giornali, siamo sempre le solite, e giornali, un giornale cattolico in particolare, il Tiroler Volksblatt, e ho letto della commovente, fastosa cerimonia di quando fu portata qui questa statua della Vergine, che è la Vergine di Lourdes, che fu regalata alla città di Bolzano da due zitelle, ho detto io zitelle, insomma, Jungfrau di qua, Jungfrau di là, saranno state, beh, non lo so, di Bolzano, che erano andate in pellegrinaggio a Lourdes, e a Parigi avevano comperato questa statua. Per cui, se andate a vedere la chiesa dei Domenicani, vedete questa statua, è del tardo Ottocento, portata da Parigi da due anziane signore, diciamo così, o anzi meglio anziane signorine. Questo è parliamo adesso di musica. Vedo Valdimaro Fiorentino interessatissimo subito. Tra l'altro, anche su Savoia ti controllava. Anche se sono passato. Tra l'altro mi ha telefonato il giorno fa, mi ha detto: ma noi all'elementare eravamo a scuola assieme, tu avevi una insegnante con un dente d'oro, come lo dico io, l'insegnante signora Ferrari Malanca Vittoria, ah non mi ricordavo più il suo nome, ci siamo incontrati dopo 80 anni forse, insomma, abbiamo fatto insieme le cose, abbiamo fatto insieme i primi 3 anni della scuola elementare, Regina Elena, tra l'altro, quando era Regina Elena. Va bene, questo è il comitato promotore della Schulz e Pollman, costruivano pianoforti a Bolzano e li costruivano inizialmente mi pare in via Rosmini, poi in via della Mendola, poi sono andati a costruirli a Pineta di Laines, ed è una cosa molto interessante perché tutto partì da Schulz, che era un germanico, e poi subentrarono anche torinesi, cose del genere. E la Schulz e Pollman, tra l'altro, è stata una bella casa che ha cessato di vivere nel 1993 perché ha subito la concorrenza dei giapponesi, dei pianoforti giapponesi. Questa è, parliamo sempre di musica, i due Soccini, invece, no? Di Soccini, che noi ricordo un bravo allenatore di Coval di Maro Fiorentino, sono un ottimo giocatore di basket. Ah, c'è anche sì, c'è stato, sì sì, un ottimo Soccini. Ah, un ottimo Soccini. Non so se discendente della famiglia, non lo so. Di Maro, non erano. Questo era, vi sto parlando di Fidel Soccini, fondatore, questo nome fantastico, Fidel, no? Fidel era un trentino che si chiamava Fidel e era un medico, viveva in Val di Non, appassionato di pianoforti, e quando si ruppe un pianoforte in Val di Non, a Sarnonico, esatto, e lo chiamarono perché desse una mano, lui riparò il pianoforte e si divertì tanto che a Bolzano, lasciò la medicina, a Bolzano aprì una fabbrica di pianoforti. Che inizialmente, che eccola qua, è la Fidel Soccini, vedete qua, F. Soccini. Queste case si trovano in via Casa di Risparmio. Qua adesso c'è la scuola, la scuola Dante, qua. Queste due torrette io le ho vissute, abitavo lì di fronte, in via Leonardo da Vinci, le ho vissute per una vita, perché sono nella casa antistante casa mia, ecco, e questa era la fabbrica delle non più pianoforti ma fisarmoniche, armonium e cose del genere. E anche questa casa visse molto più a lungo, e tra l'altro vediamo se ho la, sì, ce l'ho. Ah no, non ce l'ho, no. Questo caso è un altro discorso, no, una Soccin fu una brava professoressa, Soccin fu una brava attrice dilettante a Bolzano, era figlia del fondatore o nipote del fondatore della Fidel Soccin, non lo so, e basta. Ah no, e aveva una sorella, appunto, era quello che volevi dirmi tu. Faceva parte di Ferro Scongari con la pittrice, no? No, era negli anni 30. Da Tullia Soccini, esatto, che fece un bellissimo ritratto a suo padre, che vi farò vedere il giorno 25, vi faccio un po' di pubblicità, se venite al Teatro Cristallo, o nella zona Cristallo, dove terrò una conferenza sui monumenti di Bolzano, quelli che appaiono, quelli che scompaiono, quelli che si nascondono e via dicendo. Qua siamo in Val Gardena, anni 30. Che oggi va detto che se si fermassero i coronati per un mese quasi in vacanza sarebbe uno scandalo, allora invece era la gloria, perché risparmio in Alto Adige poco meno di un mese, no? Per cui era una cosa straordinaria. La Val Gardena viveva, e voglio farvi notare due cose: Umberto di Savoia, che non poté stare per tutto il periodo di ferie perché morì il Papa e dovette andare a Roma, pertanto ai funerali del Papa. Maria José del Belgio, è questo, marito e moglie. Questa è Gabriella di Savoia, qua dietro fa capolino Vittorio Emanuele Baldovino, dice. Il marito di Fabiola. Baldovino, esatto, che era già più grandicello. Questo ed è un momento bellissimo questo. Questo è Vittorio Emanuele IV praticamente, no? Sarebbe il piccolo Vittorio Emanuele vestito da tirolese, no? Da gardenese. E questo fu un dispetto che i Savoia fecero ai fascisti. Perché i bambinetti dovevano tutti vestirsi, io da figlio della Lupa e poi da Balilla, figurarsi se i figli, i nipoti del Reno dovevano, non avrebbero dovuto a loro volta vestirsi con la fascia bianca incrociata. Invece no, loro vestirono il piccolo Vittorio Emanuele con... E anche Gabriella, che vedete qua dietro il cappellone, con il costume della Val Gardena, per non essere troppo sull'altra sponda, cosa fecero? Pensarono di fare indossare al bambino un cappello d'alpino. Vedete qua? È poco bello. Adesso vi faccio vedere il dettaglio. Ecco qua Vittorio Emanuele che non è del tutto contento. Questo è il cappello d'alpino, questo è con la faccia un po' severa, e Gabriella, e questo è Baldovino. Ecco, andiamo avanti, vediamo se c'è ancora un po' di tempo. No, non c'è più niente. Hai fatto dei danni? No, c'è ben qualche cosa ancora. No, perché mi incuriosiva anche la comparsa di Frangipane questa volta. Sì, anche Frangipane. Mi sembrava carina, no? Dire di Pertini, gelato, c'erano alcuni episodi che forse potevi raccontarci in chiusura. Aspetta. Che puoi raccontare anche senza ausilio fotografico. Allora vi racconterò senza ausilio fotografico. Gelato di Pertini. Ma come mai o Claus di Biani? Mi è comparso Claus di Biani, beh, una cosa abbastanza. No, proprio ho perso le ultime immagini. Vabbè, meglio perché sono le. Sì. Può essere una cosa fatta apposta. Ecco, cosa fatta apposta. È un sabotaggio a distanza da parte della biblioteca Claudio Augusto. Ma racconta di Pertini, no, perché tu in realtà racconti di un gelato, ma racconti anche di una storia particolare. E leggono Pertini Presidente della Repubblica. Io sono qui a Bolzano, in un periodo nel quale non avevo da correre in giro. Io correvo in giro inizialmente solo d'inverno, quando c'era la gara di sci, eccetera, no? Poi però ho cominciato anche in estate, perché mi attribuirono anche come competenza l'atletica leggera. Comunque era... Era giugno, non mi ricordo quale anno, e venne Pertini e al giornale radio a Roma. 78 dovrebbe essere, 78. Secondo il tuo ricordo era l'agosto del 78, ma non volevo dire sia il giugno che l'anno, agosto 78. Agosto 78, ecco. Allora, quando da Roma giunse la redazione Rai di Bolzano la richiesta di un'intervista al neoeletto Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. E a Bolzano dissero: chi mandiamo su? Quello da Diporto è quello di Diporti. Da notare una cosa, che niente ufficio stampa, niente, ma ci riesco o non ci riesco, non so, devi andare su, vedere, fare un servizio. Mi chiedono tra l'altro di chiedere a Pertini che libri si era portato appresso per trascorrere le ferie. Dunque, allora Pertini andò nella caserma, nel centro dei carabinieri di Vallunga. Tu fai anche una battuta, no? Perché lo controllano, ma lo controllava anche, c'era la valle tutta chiusa. Ricordava anche il suo passato di prigioniero, no? Ma lui diceva a Pertini: questi carabinieri che mi hanno sempre tutelato, ed era ironia, perché naturalmente a ventotene lo curavano, nel senso era che una tutela un po' era una tutela un po' particolare. Allora adesso non voglio tirare acqua al mio molino, ma a Bolzano, quando c'era, quando c'era una situazione un po' difficile, dicevano: mandiamoci Frangipane che se la sa cavare. E allora il telefonato. Infatti fu Pertini a intervistare Frangipane, non si dice, ma c'è Sì, ma poi era chiacchierone, il chiacchierone finiva mai, insomma. Ma c'è il gelato, raccontaci il gelato. Arriviamo al gelato e poi vi saluto. E allora telefono al capitano Maffei, che conoscevo perché c'era la scuola alpina a Lo sport aiuta, e quindi tutti i sciatori, i carabinieri, eccetera, eccetera, passavano per quella scuola. Io conoscevo molto bene Maffei e gli dissi: sente Maffei, io dovrei intervistare Pertini, è difficile per lui. So come fa, bene, non c'era ufficio stampa, non c'era un giro di collegamento. Allora mi è venuta un'idea, ma va sempre in giro in macchina? Sì, va sempre in giro. Lei dove va domani? Ci ho pensato, ma io domani farei, dico dopo, mi scuso, sono anni passati, io se mi voglio poi mi sgrida naturalmente. Ma è sfuggito per cui noi non racconteremo questo episodio. Allora mi fa: no, andrò a fare una passeggiata in macchina all'Alpe di Siusi. E allora io credetti di capire, presi una truppa e andai con la truppa, che non funziona il bottone, ha scaricato, porca madonna, ho parlato troppo. Finché incrociai in due macchine nere che andavano avanti e indietro, allora dissi all'autista: segui quelle macchine là. Seguì quelle macchine e arrivando davanti all'hotel Montepana ne scese Pertini, che ci venne incontro e mi disse: cosa vogliono questi signori della RAI? Sapeva tutto. E sono venuto per chiedere se... Allora facciamo subito. Allora ci siamo sulla panchina e faccio l'intervista. Cosa legge? Era morto Ignazio Silone, adesso mi viene in mente. E oltre che la lettura, si voleva da parte di Pertini un commento su Ignazio Silone. Mi parlò di Ignazio Silone e tutte queste cose qua. Per cui vi posso invitare per un gelato? Come no, Presidente? Allora andavamo dentro al ristorante, nell'albergo, al bar, e lui ordinò gelato per tutti, e io, ciascuno di noi, anche l'operatore, anche i carabinieri, tutti coloro che avevano gelato. E osservate una cosa, che lui andava velocissimo e il gelato non lo trattava col cucchiaino, lo mordeva. Perché hai fatto una delle tue proverbiali gaffe? Ho fatto una delle mie proverbiali. Perché tu gli hai detto: ma come fa a non sentire il freddo con i denti? Uno le fa male ai denti. E mi sono accorto che aveva dei denti troppo perfetti e allineati per essere veri. Non mi rispose e mi guardò anzi con occhi un po' truci. Ecco, questa è l'avventura con Pertini. A questo punto chiacchiera, anche perché le immagini non le vediamo più, e penso che sia il caso di chiudere il discorso. Io vi ringrazio moltissimo della chiacchierata che mi avete consentito di fare. Professor Pellucci, vada. Volevo dire la tomba di Emil Dostoevskij. Allora, la tomba di Emil Dostoevskij. Allora, la tomba è molto bella. Era fino a 20 anni fa nel cimitero della vecchia parrocchiale di Gries. Di Gries, sì. Dove c'è l'ingresso sulla sinistra. Sì, sì. Come... è in porfido rosso. Sì. E poi allora fu spostata al cimitero di Claudio Borsano, cimitero di Borsano, e c'è una bella iscrizione: dell'anno in Borsano d'Italia moriva Emil Dostoevskij, che del grande suo genitore fu biografa amorosa e verace. Bravo, ti ricordi anche le parole, sì, bello. La leggo tutte le cose, sì, sì. Da notare che davanti a questa, non è proprio la tomba, a questo ricordo, ci sono sempre dei fiori e c'è sempre la candelina accesa. Sì. e si trova entrando al cimitero, si va diritto fino alla chiesa, lì si volta a destra sotto il porticato, poi a un certo punto c'è l'arco dove si gira a sinistra e si va fino in fondo. Quando si arriva in fondo, dove poi adesso ci sono i nostri, sulla destra c'è questa tomba con questa iscrizione. Grazie, buona serata.